La pagina della cultura, la storia di una scrittrice, Sanda Panza, croata, che vive in Italia dal 91. La sua prima opera, Una ragazza con la valigia, racconta la storia di Petra, ancora bambina, nella Spalato segnata dalla morte di Tito, e poi gli orrori vissuti sotto la guerra nell'ex Jugoslavia. L'intervista alla scrittrice. Il libro racconta la storia di una bambina e poi ragazza di Spalato che apparentemente vive una vita comune di tutti gli adolescenti, e sullo sfondo di questo racconto c'è la storia del comunismo di Tito. Si rivela la rigidità razionale di un sistema che poco dopo crollerà del tutto. Lei ha vissuto gli orrori della guerra nell'ex Jugoslavia? Sì, io ho vissuto i bombardamenti che c'erano nella città di Spalato. Circa un mese e mezzo dopo sono partita per Italia su volontà di mio padre e ho seguito poi ovviamente tutto quello che è diventato una tragedia davvero disumana dall'Italia, che sicuramente il culmine ha raggiunto in Bosnia. A Srebrenica l'11 luglio del 95 oltre 10.000 uomini sono stati catturati, torturati, uccisi e molte donne abusate. Quanto una ferita del genere era immaginabile? Quello che fa ancor più male è che c'è stata in qualche modo una situazione che davvero si poteva fermare. C'erano i caschi blu e non è stato fatto davvero nulla, per cui una cicatrice enorme, soprattutto pensando che si poteva comunque evitare. Anna Maria Caresta, GR3.